fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ed eccoci qui, buonanotte o buongiorno a tutti in base a quando ci ascolterete. Questo è venerdì 1 giugno del 2018, io sono Master Nick e questa è Risto Radio Convento, la web radio del convento di Lonato del Garda, che per l'occasione rischia una denuncia formale perché abbiamo ampiamente superato il numero di persone consentito in una stanza unica, ma ci fa piacere, soprattutto mi fa piacere, visto che questo numero lo fanno delle gran belle donne, soprattutto sono tutte donne, quindi le accogliamo con una grande gioia e un grande piacere. Soprattutto, mi permetterete, ce n'è una che è assolutamente protagonista questa sera, la nostra Alessandra! La nostra Alessandra che si sposa, giusto? Così mi hanno detto? Sì. Il 30 giugno, assolutamente sì. Nonostante si sia innamorata più o meno dei tre quarti degli uomini presenti all'interno del locale. Tra l'altro lui è uno di questi che è venuto a reclamare il suo premio. Però sono stati tutti amori futili, perché non è che è scattato nulla, è stata solo un'attrazione di qualche secondo. Allora, Alessandra, questa è la cosa più bella, penso, dell'intervista che faremo. Da dove vieni? Vengo da Sandra. Ecco, vieni da Sandra. Con l'accento sulla. Ed è tutto vero, cioè non stiamo scherzando, non è un gioco, assolutamente tutto vero. Sandra dove si trova? No, non Verona. C'è. Non c'è. Provincia di Verona. Davvero, non c'è battuta in questo. Vicino a Castelnuovo del Garda, vicino a Garda. Non c'è battuta in questo. Vicino a Garda. Non c'è il McDonald's. È preparatissimo. E, allora, si sposa il 30 giugno, chi è il fortunato? Alessandro. No, niente. Si chiama Mario. Sarebbe stato un quadretto Mario, perfetto. Mario, Alessandro Mario, e Alessandra Mario, Sandra. Mario, sarebbe Mario, stato perfetto. Mario. È un nome. È un nome inventato o un nome vero? No, perché cioè, beh, di solito si dice quando non si sa che nome dare a una persona, Mario. No, invece è un Mario vero. Ah, descrivicelo. Descrivicelo, dai, ci interessa. È grigio. Ah, Mario, è brizzolato, bellissimo, è mio amore. Addirittura. Ok, dai, parlaci un po' di lui. Parlaci di lui! È simpatico, è alto, molto tranquillo. Ah, tranquillo, e sta con una come te, che hai saltato per tutta la pista tutta sera. Sai che gli opposti si attraggono. Bilanciarsi un po'. Certo, devi. Attenzione, un attimo. Persona, sta parlando Steven Spielberg, che è la regia, ma proprio come si dice, l'amore vero. L'amore vero, che bello. E se lo dice Steven Spielberg, ci crediamo. No, infatti, abbiamo due figli. Ah, quindi sono già avanti. Ci hanno pensato un po'. Siamo insieme. Hanno fatto le cose al contrario, come si dice. Esatto, prima i figli e poi il matrimonio. Esatto. Istintivo. Hanno vissuto 20 anni insieme. Sagittario. 20 anni, bellissimo. Hanno vissuto 20 anni insieme, due figli. Due figli? Due figli. Una di 10 e una di... Uno di cinque. Ma ti sposi con Mario o con lei? Perché lei è preparatissima. Madonna. È informatissima. Ha studiato tantissimo per questa. Si ricorda meglio. Ok. E cosa vi ha quindi. Ma davvero state insieme da 20 anni? 27. Cosa ti ricordi cosa vi ha colpito uno dell'altra all'epoca, 27 anni fa? Tanto alcol. Beh, diciamo che l'amore è basato su solide basi. No, qui stanno andando delle braccia nel frattempo, degli esseri umani strani che si palesano qui da noi. No, seriamente, dai, cosa vi ha conquistato uno dell'altra? 15 anni, eravamo giovani, e però pian pianino ci siamo innamorati. Ma che bello. È una storia d'amore. Oh, loro sono l'esempio che l'amore vero esiste. L'amore vero esiste. Bene. Ti hanno liberato. Beh, intanto, sì. Intanto c'è una. C'è, no, esatto. Nel frattempo le amiche della sposa si spogliano, si toccano, ma è molto bello, soprattutto stare al chiuso e vedere solo questo aspetto. Mamma. Qui sta succedendo l'impossibile. Oh, non l'ha neanche bevuto, eh. No, ma il problema. No, il problema vero è che io sono chiuso qui dentro e non posso approfittarne. È quello il problema vero. No, no, il piano, ci sono i minori all'ascolto. Ci sono i minori all'ascolto, c'è il minore all'ascolto. Allora, allora, Alessandra, Alessandra, recuperiamo il lume della ragione. Chi ti accompagna stasera? Chi hai qui con te? Vedo che il gruppo è nutrito. Le mie amiche del cuore che mi sostengono sempre, che mi amano, vero? Vabbè, quello. Quello lo dici tu, quello lo dici tu. Festeggiarmi e quindi sono molto felice. Lei secondo me è la mia testimone. Lei secondo me. Lei è la mia testimone. Lei secondo me ama più la Ceres, ama più la Ceres che te. Ho questa, questa piccola idea. Anche questa chi sensazione. Manca purtroppo. Ah, ha detto Mario, ha detto Mario. Ah, ho capito. Ah, ok, ok. Adesso è tutto chiaro perché ho bisogno perché di. Non, no, allora, no, no, ti spiego. Io ho bisogno di didascalia, io ho bisogno di didascalia. La testimone della sposa fuori dal vetro stava giocando al gioco del mimo e stava mimando la parola Mario. Questo era quello che succede. Ma è rappresentativa. Esatto, rappresentativa, vedi, vedi che loro l'hanno capito subito. Ok, dai, presentaci le tue amiche del cuore velocemente. Abbiamo Barbara Solano. Olè! Katia, amica del cuore, vieni dentro. Un segno, Lorena, che distingue. Olè! Lei ce l'ha con i segni distintivi, vuole Madonna, segni distintivi per tutti. Ce l'ha proprio. È una cosa che ha nel cuore. È vero, è un'improvvisata. Katia, Katy, olè! Al numero 6, Roberta Cao, olè! Cugina, cugina! Olè! Olè, è bene. Fuori, fuori, fuori, fuori! Ma una, ma non! Ma nonna! Ma non! Per atti osceni! Olè! Sì, esatto, denunciata per atti osceni! Quattro figli, lei? Quella che si stava togliendo la maglietta? No, quella della Ceres, quella della Ceres! Quella della Ceres! Katia! Bene, bene! Eccola, quella, lei è quella della Ceres, lei me la ricordo, lei me la ricordo, molto bene. Ah, Ceres, Ceres, Alessandra detta Ceres, benissimo. Ok. Katia, io sono. Ah, scusa, Katia detta Ceres. C'è un po' di confusione, c'è un po' di confusione. Alessandra da Sandra. Alessandra, Sandra, assolutamente sì. Lei intanto continua sulla A, come sempre. Lei continua a riprendere, intanto sta facendo il documentario di nozze. Brava, brava, è giusto, perché questa te la puoi giocare al matrimonio, 30 giugno, quindi segnatevi. No. Beh, non è detto, magari è interessante. Quello che è sicuro è che le ragazze questa sera si sono divertite e si divertiranno ancora di più da adesso in avanti, nel momento in cui la festa è cominciata. Ecco qua la. Che spettacolo questa ragazza. Tu pensa a una testimone così. Voi vi state perdendo uno show. Esatto, ed è l'unica sobria del gruppo. E adesso fa Heidi, sta mimando Heidi che cammina sulle montagne. Bene, bene, bene, tanto non sentono nulla di quello che diciamo. Quindi Alessandra, allora facciamo un gioco. Alessandra, adesso tu guardi la tua testimone, le sorridi. Vabbè, niente, non facciamo il gioco. Era una cosa bellissima, niente, ormai. No, ma volevo farle Torna. No, va, torna, va, è colpita dagli uomini, niente. Mi era venuta un'idea magica, ma ce la terremo, te la terremo per noi. Magic moment, ce lo terremo per noi. Allora ragazze, grazie mille per essere state con noi. Vi salutiamo, vi auguriamo un buon divertimento e a presto. A presto.